che con Pippo non c'è assolutamente problema. C'è stato uno scambio di un minuto neanche di opinioni. Tutti noi vogliamo il bene del Milan, ci mancherebbe che fosse successa una cosa simile. Riusciamo a vincere un trofeo che ci mancava da tanto tempo. Secondo me la nostra società meritava un riconoscimento. Adesso è il momento di metterci la faccia e di rimanere uniti in quello su cui stiamo lavorando. Non dobbiamo mollare un centimetro. Tutti convocati di Carlo Genta. Ciao a tutti, Franco Piantaneda in redazione, Pietro Lacorte in regia. Oggi parliamo un po' di follia. Follia è quella che apprendo sui siti internet, secondo cui a Shanghai ci sono minacce di morte per Roger Federer, campione svizzero che dovrebbe partecipare al Master dal 7 al 14 ottobre, e minacciano di farlo fuori per sterminare il tennis. Pensate un po', la firma del fondatore della religione politeista del Gatto Blu 07, speriamo che lo ingabbino presto e per lungo tempo. La follia è anche quella che in una domenica di inizio ottobre Milano ha bisogno di Milano Sportiva ha bisogno di un potente antidepressivo e combinano un pasticcio sovrapponendo due grandi eventi sportivi. Ci sono i Boston Celtics per un forum tutto esaurito con biglietti carissimi, ma nel quale non ci starà più nemmeno uno spillo per vedere Milano contro Kevin Garnett, contro Paul Pierce, contro la leggenda dei Celtics. Sentiamo. Milano aveva la Scala, Milano aveva la rivista, Milano aveva San Siro, ma Milano aveva anche la pallacanestro. Era la squadra del Borletti che poi diventò Simmental. Era la squadra pensata da Bogoncelli e realizzata da Rubini, un tecnico un po' alla Rocco, non tanto propenso agli schemi, allo studio del gioco, quanto grande conoscitore degli uomini. Fu il primo a vestire i suoi giocatori con tute di raso che luccicavano sotto i riflettori del Palazzo dello Sport e soprattutto inventò le famose scarpette rosse. Vittoria con la coppa in mano, cosa provi? Ma finalmente c'è una coppa, non sai cosa provo, niente, noi vogliamo vedere il scudetto al prossimo. Alla terza volta ce l'avete fatta. Sì, meno male, non okay. Abbiamo perso di un punto. Grazie. Kevin Garnett, number 34, the captain and the truth, Paul Pierce. Ridateci palla spicchi. Beh, mi sembra che di palla spicchi stiamo parlando e parleremo ogni venerdì. Coach Dan Peterson, scommetto che qualche brivido sentendo queste parole sia venuto anche a te. Ciao coach. Ciao caro, ciao amici sportivi. Oh, ovviamente anche qualche, io felicemente qualche commento sui Celtics l'ho fatto anch'io. Senti, dicevo, una domenica che sarà una specie di antidepressivo per la Milano Sportiva, che non sta vivendo un grande momento, calcio e basket, nonostante una buona settimana di coppe. Però coach, c'è una cosa che non riesco a capire, cioè Milano-Boston, forum esaurito, ore 18, derby ore 20 e 45, non si poteva trovare una soluzione temporale migliore? Guarda, è chiaro che siamo tutti generali dopo la guerra, è chiaro che questa è una cosa che derby e Celtics nel stesso giorno, però se un vero, veramente un tifoso riesce a fare tutti e due, mi immagino, ok? Quindi non so come dire, però è chiaro che magari ci voleva uno sabato, uno domenica, tante per dire. Chiaro che sì, è chiaro che sì, siamo tutti generali dopo la guerra, però bisognerebbe provare adesso anche prima. Cosa rappresentano i Boston Celtics, per chi non lo sa? Yeah, loro erano veramente la prima vera dinastia nell'NBA, ok? Bisogna sapere che c'era lega professionisti che nascevano, morivano come le farfalle, hai capito? Mm. Cioè proprio. E poi nel 46, esisteva già la NBL e poi c'è la BAA. Nel 48 fanno la fusione per veramente diventare l'NBA, l'NBA è la BAA, eccetera. Mm. Quindi esiste solamente dal 1946 la vera NBA che conosciamo oggi. Quindi ha vinto Philadelphia, poi ha vinto Baltimore, poi ha vinto i Lakers, la prima vera dinastia, ok, però Boston è stata la prima dinastia che è andata in televisione. Mm. I Lakers non lo sapeva quasi nessuno perché non c'era la copertura televisiva che c'era quando sono venuti i Celtics con il primo grande titolo loro, che mi ricordo io, nel 56-57, con Bill Russell, con Heinsohn, con Cousy, con Sharman, con questa grande squadra mitica che in bianco e nero non si vedevano i colori bianco e verde ancora, eccetera. Però il gioco, Red Auerbach, l'allenatore, tutto fatto colpo su di noi e su di me, ti dico come allenatore, aspirante allenatore, se vogliamo dire, l'impatto del grande basket professionista, che ho giocato molto bene. Quindi è stato la prima squadra, prima dinastia, bisogna dire, Minneapolis Lakers, che oggi sono Los Angeles, ma la prima dinastia a colpire gli americani sono stati i Boston Celtics, che hanno dominato l'NBA per un decennio. Ancora una cosa, coach, Milano grande favorita per questo titolo che perde a Bologna in attesa dei Celtics nell'anticipo, è una cosa fisiologica, cioè la testa no. Era quella partita o che ne so. Carlo, se dimmi. Tu dovessi giocare contro i Boston Celtics domenica è veramente missione impossibile, ok, mi dispiace per la squadra, ma proprio è anche comprensibile, ok? Poi bisogna anche mai togliere niente da nessuno, e in questo Sergio Scariolo è stato perfetto Bologna ha giocato bene, amici sportivi, mm-hmm. Non andiamo a cercare le scuse facili, e Bologna ha giocato bene, non ci sono storie. Grazie coach, ci sentiamo venerdì. Ciao a tutti. È l'importante esagerare, l'importante esagerare, sia nel bene che nel male, senza mai farsi capire. Sopra il Milan c'è solo il cielo. Dopo il cielo c'è l'Inter. Va bene. È la verità. L'importante esagerare, sia nel bene che nel male. Hai sentito, insomma, aria di derby, aria di un pomeriggio indimenticabile, di cui continuo a non spiegarmi l'impossibilità di renderlo veramente fruibile a tutti, al di là dei prezzi che sono alti, al di là dei gusti, però mi sembra follia pura far giocare Milano con i Celtics alle 18 e il derby alle 20:45. Impossibile seguire dal vivo entrambi gli eventi. Domenico, provincia di Catanzaro, convocatissimo, 800240024, dica tutto ciò che vuole. Buon pomeriggio e complimenti per la trasmissione. Grazie. Due considerazioni piuttosto rapide. La prima in merito alla notizia della minaccia di morte a Federer, volevo dire che soltanto che i pazzi sono dappertutto, quindi dobbiamo purtroppo convivere con persone che hanno problemi a livello personale, quindi penso che sia una cosa, diciamo, sulla quale si può è meglio passarci sopra, ecco, questo è il mio pensiero. Poi in merito invece vorrei proiettarmi al derby di domenica tra Milan e Inter. Volevo fare una considerazione, non so se lei è d'accordo, a livello, diciamo, di impostazione di partita. Secondo me l'unico modo che ha il Milan di mettere in difficoltà l'Inter oggi come oggi è giocare nel classico contropiede. Ha i giocatori, il Sharawi, Bojan, con grande pragmatismo e con grande umiltà, giocando come una squadra provinciale, diciamo così a stramaccioni vengono i brividi. Il Milan dovrebbe giocare così, no, ma infatti il Milan che stramaccione non vuole sentir parlare di provincialismo, non so perché. Io penso che al momento il Milan non ha la qualità di gioco per impostare una partita e prendere in mano il pallino, perché ha dei giocatori che non hanno le qualità che avevano i Seedorf o piuttosto i Kakà, insomma, i giocatori che conosciamo. Questo mi sembra evidente, però mi sembra che una piccola prova ci sia stata a San Pietroburgo, dove il Milan ha giocato una partita di estrema intelligenza, facendo vedere anche qualche cosa di nuovo e di diverso. Torneremo a parlarne naturalmente con voi, 800240024, perché siete sempre tutti convocati, come Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buondì. Io voglio farti appunto una considerazione tra virgolette politica che mi tormenta dall'inizio di questa trasmissione e da tempo, perché in una Milano che ha bisogno di sport, che ha bisogno di un antidepressivo sportivo su ogni fronte, sovrapporre la partita dell'Olimpia con i Celtics e il derby mi sembra una pazzia. Sicuramente è un disagio per tanti, da quelli che vorrebbero presenziare i due avvenimenti a quelli che vorrebbero dare lo spazio ai due avvenimenti. Temo che sia un po' il prodotto di una certa incomunicabilità generica di un mondo che ha più strumenti per comunicare di prima, ma ci riesce peggio. Ma è possibile che non riescano mai a mettersi d'accordo? Questo vale anche per... è un lungo discorso che vale per le sovrapposizioni tra calcio e basket, che tu conosci bene, che ci sono sempre state. È davvero così un problema parlarsi e cercare di valorizzare due grandi prodotti? Sai, in teoria no, in pratica sì, però l'analisi del motivo per cui lo è dovrebbe essere fatta da uno che ha molti più strumenti per farla di quelli molto empirici che ho io. Posso dirti a latere che, per esempio, in America non c'è tutta questa preoccupazione. Uno dice sicuramente lì sono molto più scienziati da questo punto di vista, è una cosa di cui si preoccupano poco. Temo che qui ci sia la specificità del calcio, che è 100 e tutto il resto sommato forse è 10, e quindi è un po' quello che tende a condizionare il contesto. Beh, mi pare che i Celtics non siano 10, Flavio. No, nel nostro cuore, nella nostra testa no, però nella considerazione generale ho paura di sì, perché sono collegati a un concetto di la pallacanestro e bravi Celtics, bravo l'Olimpia, però non è Milan-Inter, neanche sì, vicino e neanche nello stesso mondo. Intanto sì, il forum sarà pieno e comprare i biglietti è impossibile da mesi. A San Siro fanno gli appelli per buttare la gente dentro lo stadio, eh? E chi vuole intendere intenda, no? Ma tu mi vorresti portare lontano. Ti voglio portare lontanissimo. Ci verrei volentieri. Diciamo che tra il paese rappresentato e il paese reale, per certi versi, c'è differenza. Senti, ieri mi ha chiamato un ascoltatore e mi ha chiesto quanto valgono i Celtics nella corsa all'oro. Mi sono arrabattato, ma giro la domanda a te. Ma in realtà non possiamo saperlo, nel senso che stasera giocano a Istanbul, domenica giocano a Milano, non potremo saperlo neanche dopo, ma almeno un minimo elemento ce l'abbiamo. Sai, non ho 9 giocatori nuovi, non c'è più Ray Allen, bisogna vedere le condizioni di Pierce, che dice che sta bene. Garnett ha firmato per 3 anni, me lo aspetto molto motivato, però con Jason Terry, il ritorno di Jeff Green e altri giocatori che sono arrivati, finché non li vediamo in campo facciamo fatica a capire fino a dove possano arrivare. Sono una delle 6 che nella mia testa, viste su un foglio di carta, giocano per quell'oro di cui parlava il nostro amico. Però credo che nella tua testa e su quel foglio di carta Oklahoma e Los Angeles siano prima e seconda nel ranking. Ma Oklahoma, Los Angeles e San Antonio di là, Boston, Miami e Chicago di qui, però non sono convinto, sono sicuro che ce ne saranno almeno un altro paio, una di qui e una di là come minimo, che si inseriscono, e almeno un paio di queste 6 che non avranno nessuna possibilità, ma lo sapremo non prima della gara numero 20, 25 e 30, perché quest'anno si torna a giocare su 82 ed è tutto un altro ragionamento. L'ultima cosa che ti chiedo, Flavio, questa politica di apertura al mondo dell'NBA, a dove mira, a dove vuole condurre, dove vuole portare? Perché siamo all'ennesimo esperimento e ci sono stati i Knicks, sempre qui a Milano, di Danilo Gallinari, quando era i Knicks. È una politica globale di apertura, dove vogliono arrivare? È una domanda molto interessante, secondo me molto pertinente. Ti rispondo dicendoti che quando ero al liceo ricordo benissimo uno Sports Illustrated, che all'epoca era merce veramente rara, che non mi ricordo come mi arrivò in mano, e c'era un articolo di 7, 8, 9 pagine su come l'NBA a breve sarebbe sbarcati in Europa e ci sarebbero stati i Milan Madunas piuttosto che i London Towers, eccetera eccetera. Adesso io il liceo l'ho finito da un po' di anni e siamo ancora qui. È chiaro che il mercato americano è abbastanza saturo per l'NBA, possono fare un po' meglio, un po' peggio, ma il mercato è quello lì. Il mercato interessante sarebbe quello fuori dagli Stati Uniti. Però ancora non mi sembra che quello sia lo sbocco, quello di quello spazio stretto, sì, del liceo. Per adesso tengono un po' caldo il tutto. Qui la cosa viene vista con contraddittorietà, secondo me, perché il forum sarà pieno, c'è grande entusiasmo, però poi in realtà c'è un misto di paura, diffidenza, pregiudizio nei confronti del possibile sbarco dell'NBA in Europa. Forse bisognerebbe tutti un po' deciderci che cosa vogliamo fare da qui a 10 anni, perché se tra 10 anni siamo ancora qui a dire che bello, vengono i Nuggets, i Rockets, quelli che sono. Non abbiamo fatto un millimetro. Esatto. Ti ho detto che quella era l'ultima cosa, invece no, perché io uso poco Facebook, però prima ho trovato postato una tua cosa, che è questa: sto facendo il riscaldamento in campo e sento una vocina che mi dà della testa di cazzo, mi giro e vedo un bambino di 10 anni al massimo, mi sono avvicinato e gli ho chiesto: ma chi ti ha insegnato a vivere così lo sport? Quando giocavo nella Fortitudo eri appena nato, non puoi avercela con me. Lui, imbarazzatissimo, mi ha chiesto scusa e mi ha fatto riflettere. In Italia, nello sport, c'è qualcosa di sbagliato, di profondamente sbagliato. Non sono parole tue, ma di Gianluca Basile. Sono parole di Gianluca Basile, un episodio che è successo a Bologna, che ci ha raccontato Gianluca. Qui veramente mi porti lontano e mi tenti, perché io starei a parlare per mezz'ora di questo. Diciamo sinteticamente, se vogliamo prenderla, bravo Basile, sei un santo e il bambino è maleducato, o i genitori del bambino sono maleducati, oppure Basile, che cosa parli a fare? Hai seminato la zizzania e l'odio tra le tifoserie di Bologna e adesso raccogli i frutti di quello che hai seminato. O da questi punti di vista credo che perdiamo il nostro tempo. Io credo che se qualcuno non avverte che c'è qualcosa di profondamente sbagliato nel nostro modo di intendere lo sport, è perché è insensibile. Che lo dica Gianluca Basile, secondo me rileva, perché ha avuto un periodo in cui è uscito da questo contesto ed è rientrato. Allora, diciamo, in Spagna è perfetto? No, che non è perfetto, però ci sono delle specificità qui di un certo tipo. Il bambino di 10 anni dovrebbe solo farci riflettere, non farci schierare su chi ha ragione, ma farci riflettere. Però non mi sembra che ce ne sia tutta questa voglia, se devo dire la verità. Un abbraccio, Flavio, grazie. Grazie a voi. Vale, è importante esagerare, l'importante esagerare, sia nel bene che nel male, senza mai farsi capire. Sono arrivato in una squadra al top, quindi insomma una squadra come il Milan, insomma non si può mai dire di meno. E questo era Pazzini, per chi l'ha riconosciuto. Certo che la qualità del suo programma va di pari passo con quella del calcio italiano, scrive Franco da Ferrara, grazie. Francesco da Bologna. Sì, ciao. Ciao. Vorrei dirti 3 cose molto veloci, cerco di riassumere molto velocemente. La prima riguarda il discorso di Basile che avete fatto prima. Io ricordo benissimo le sue parole, lui disse: io sono un virtusino. E lui disse: la Virtusina 2 io godo come un riccio. Cosa ti aspetti dopo? Vai a giocare in casa della Virtus che è tornata in A1. Sì, ho capito, però Francesco, non un bambino di 10 anni che ti dà della testa di cazzo, perché così non si va da nessuna parte. Sì, quello sì, però diciamo l'informazione è molto diversa rispetto a tempo fa. Adesso anche un bambino di 10 anni sa che cosa ha detto Basile 10 anni fa, quella che è la sua squadra del cuore, diciamo. Le altre due cose veloci, Francesco. Velocissimo, sì. Una cosa vorrei dire a proposito del messaggio che ti è arrivato prima, di quel signore che diceva: non gliene frega niente a nessuno, di questi sport, lasciamo stare. Sono, no, una cosa velocissima proprio, si parla tutto il giorno di calcio 24 ore su 24, però non si parla di basket. Lasciamo stare. La terza? Mercoledì secondo me avete giocato un partitone. Sì, e Milano non aveva la propria testa a Boston, non credo. Perlomeno io. È l'importante esagerare, l'importante esagerare, sia nel bene che nel male, senza mai farsi capire. È l'importante esagerare, far mai finta di sudare. E noi esageriamo in tutte le maniere possibili, come farà Milano domenica con i Celtics alle 18 e il derby alle 20.45. Cioè, prima chi scriveva che va con lo scooter a vedere i Celtics, poi corre via e va a San Siro, espedienti assoluti. L'importante è esagerare, anche perché passa, dicevo, happening assoluto, passava di qui Giovanni Capuano, che è la vostra voce del weekend, e che io, cari amici, con i vostri soldi vado in vacanza settimana prossima per 4 giorni e mi ripresento venerdì, e Giovanni Capuano lavorerà al mio posto. Ciao Gio. Ciao Carlo. Allora, l'importante è esagerare sovrapposizione di eventi in una domenica che è per una Milano che ha bisogno del Prozac, dell'antidepressivo. Calcistico, cestistico non lo so, perché comunque mi sembra che Milano sia competitiva per vincere lo scudetto al di là della sconfitta di Bologna, e poi comunque c'è una kermesse con i Boston Celtics. Certo, giocarne una sabato e l'altra domenica sarebbe stata una soluzione più intelligente, ma qui le soluzioni intelligenti sono merce rara. Ma guarda, io l'antidepressivo l'ho preso lunedì scorso, quando, passando in piazzale Stuparic, davanti, sì, al luogo dove c'era il Palalido, ho scoperto che era stata completata l'opera di demolizione. E quindi lo dico anche a quelli che ci ascoltano non da Milano: la casa delle scarpette rosse non esiste davvero più adesso, è soltanto un cumulo di macerie. E mi ha fatto venire in mente anche le tante volte negli anni scorsi, quando Milano contava qualcosa nello sport che non fosse soltanto il calcio, in cui la domenica e il sabato si facevano le corse, perché c'era anche la pallavolo, c'era l'hockey ghiaccio che giocava al Forum, sì, e contava qualcosa. E io ricordo tante volte che in scooter o in macchina ho dovuto, nell'arco di 6-8 ore, andare da San Siro al Palalido, al Forum o al Pala Trussardi. Chi è milanese sa che non siamo lontani da San Siro, però è comunque una trasferta che dal punto di vista logistico propone delle difficoltà. Milano ha avuto sempre questi paradossi. È anche vero che a Milano ha sempre comandato il calcio e il resto è contato poco nulla. E noi ricordiamoci che prima che arrivasse Armani anche la pallacanestro stava per fare la stessa fine ingloriosa che hanno fatto poi pallavolo, hockey e tante altre discipline. Quindi benvenga sabato questo traffico, domenica scusa, questo traffico per gli appassionati di sport a Milano, e fa niente se può sembrare un controsenso aver organizzato tutto nelle stesse ore, nella stessa giornata. Ascolta, come valuti l'appello del Milan, tutti dentro, veniteci a vedere? A un derby è qualcosa di inedito, a un derby la gente andava intorno allo stadio quando era derby in cerca di biglietti, magari anche al mercato nero, sì, però andavi in cerca di passaggi dentro lo stadio, andavi in cerca di varchi attraverso i quali passare illegalmente. Sì, però Carlo, io ne ho visti tanti di derby, stiamo parlando dagli anni 80 in poi, e devo dirti che il muro di folla recentemente io l'ho visto solo per i derby di Champions, cioè da quando c'è la diretta televisiva comunque il derby ha perso, da questo punto di vista di attesa della città, un po' di fascino, la caccia disperata al biglietto, la caccia al bagarino, sono ricordi che sono oramai legati a un passato lontano e non ci appartengono più. Certo che l'appello dei giocatori del Milan è significativo del momento di oggi, però io ti dico una cosa: a Napoli, dove sono primi in classifica, nelle prime 3 partite che hanno fatto in casa, se tu fai il paragone con le stesse 3 squadre dell'anno scorso, hanno perso quasi 30.000 spettatori. Cioè il problema non è soltanto di Milano, è un problema un po' più radicato nella crisi italiana, nelle difficoltà che abbiamo. Poi certo, a Napoli hanno anche presentato un bel campo di gioco alla prima di campionato, e questo aiuta. Questo aiuta, e poi insomma tutta la settimana che se ne parla dello Juventus Stadium semi vuoto per il ritorno della Champions League, però se fai pagare 40 sacchi per solo per entrare dentro lo stadio, la gente fa 2 conti, e poi domandiamoci perché. Sì, perché. Però domandiamoci anche perché Agnelli e Marotta sono molto contenti. Agnelli l'ha anche scritto e detto ieri, cioè loro sono contenti che non ci fossero 10.000 spettatori contro la Shakhtar, perché deve essere chiaro che l'unico modo che ha la Juventus per aumentare i ricavi è quello di aumentare i biglietti, perché lo stadio più di 41.000 spettatori non tiene. L'anno scorso ha fatto tutta la stagione con i tutto esauriti, hanno preso tutto quello che potevano da questa situazione. Adesso è arrivato il momento, sul modello inglese, di selezionare quelli che sono i loro clienti, anche perché loro vogliono gente allo stadio che poi abbia una capacità di spendere in tutte quelle che sono le attività collaterali dello stadio. Sì. Io ho l'impressione al giorno d'oggi la dura. Io ho l'impressione, e invece evidentemente la possibilità c'è, così come c'è stata in Inghilterra anche in luoghi tradizionalmente in difficoltà economica come Liverpool. Tu vai ad Anfield Road ed è sempre pieno, non è uno stadio nuovo Anfield Road, però se tu ci vai ti accorgi di che cosa significa significa vivere la partita al di là delle due ore dell'evento sportivo. 800240024, naturalmente non dimentico chi è convocato ogni giorno dalle 2 alle 3, Marco da Milano. Sì, buongiorno Genta, volevo buongiorno. Solo commentare spiacevolmente l'ascoltatore di prima che ha definito il tennis e il basket come... Ma no, ma lasci stare, ma lasci stare, ognuno pensa quello che vuole, lasci stare. Il problema è la cultura sportiva italiana che manca, sì. E questo è dispiace perché c'è ancora gente che la pensa così. E la conferma è anche il problema di Milano di domenica, perché credo che mettere due eventi così vicini sia ignoranza sportiva, cioè la mancanza di rispetto anche delle persone che vorrebbero poter partecipare a tutti e due gli eventi e alla fine devono fare una scelta, perché... Per ragioni temporali poter andare in scooter è una scelta. No, ma le dico per ragioni temporali, ma anche economiche, perché andare a vedere tutti e due gli eventi costa un pacco di quattrini. E questo non dimentichiamolo. Quanto al resto, lasci stare, perché c'è anche chi scrive che sempre a Milano c'erano le gare di briscola. Sei ridicolo. C'è anche chi scrive questo. Che poi io non mi diverto solo a leggere messaggi negativi, perché ce ne sono. Ci sono ascoltatori molto propositivi a questo proposito. C'è la chi mia è proprio una proposta scriveva, di continuare su questo filone perché ma fa bene. Sì, ma perché parliamo di sport tutti i giorni insieme, e lo sport non è solo ridursi a ripetere sempre le solite cose e di Cassano e di El Shaarawy, se no ci annoia. Io per primo mi annoio, ma credo anche voi. C'è chi scrive, volevi che lavorassimo per te, io propongo di convocare i pugili Boschiero e De Vitis che si sfideranno per il titolo europeo Super Piuma a fine mese, Filippo da Vicenza. Ragazzi, è inutile che fate così, prendete nota, stai lì Franco Piantanida, prendi nota. Livio, provincia di Caserta. Ciao, buongiorno. Ciao. Io volevo provare a cambiare discorso e parlare di ciclismo, se è possibile. Ma è possibile naturalmente. Grazie mille. Non so se avete visto il tracciato del Giro del 2013. Sì. Ma io ho sentito opinioni negative, ho sentito dire una crono troppo lunga, ho sentito dire non va bene per i nostri corridori. A parte il fatto che i giri delle grandi montagne degli anni scorsi, sembra che siano stati forse i più brutti degli ultimi 10 anni. Sono d'accordo. E poi magari vedere qualche corridore come ai vecchi tempi, mi viene da pensare in Durán negli anni 90, una crono di 55 km, sì, forse è lunga, però la crono delle Cinque Terre, quando il Giro l'ha vinto Menchon, non era tanto corta, e mi sembra che sia stata una bella tappa quella là. È una prova molto tecnica, ad esempio a me piace da morire una delle prove tecniche più criticate nel ciclismo moderno, la crono squadra la trovo splendida. C'è gente che dice esibizione, kermesse per far vedere gli sponsor, non è vero, io penso che sia invece una cosa molto tecnica, come molto tecnica è una cronometro di 55 km. Poi il Giro d'Italia lo fanno i corridori, lo fanno le medie, lo fa il modo in cui interpreti anche le tappe apparentemente più semplici, no? Sì, ma io più che al tracciato sono interessato a vedere chi ci andrà. Questo giro ne parlavamo domenica col CT della Nazionale Paolo Bettini. Diciamo la verità, nella stagione che si è appena chiusa, il Giro d'Italia è stato l'anello debole dei grandi giri. Il migliore è stato certamente la Vuelta, che è stata la più appassionante, la più bella. Poi c'è il Tour, che è un monumento. Il giro di quest'anno è stato davvero penalizzato un po' dallo spettacolo che è mancato, un po' dal nome dei protagonisti, perché un conto è se vince Contador, un conto, con tutto il rispetto, se vince Eisedal. Quanto alla crono squadre, io la trovo davvero un controsenso in uno sport individuale che possa segnare soprattutto l'inizio dei grandi giri, l'atteggiamento tattico magari della prima settimana, premiando un lavoro di squadra che nel ciclismo ha poco senso. Ha senso quando si parla di volate, ma quando si comincia a scrivere la classifica io credo sia davvero un controsenso. Fantastico, non siamo d'accordo sul punto. Alessandro, la provincia di Ancona, e poi domani ti lascio il microfono e da lunedì a giovedì sarà tutto tuo. Alessandro. Sì, telegraficamente non voglio annoiare nessuno. Dica. Guardi, io sono marchigiano, quindi sono tifosissimo dell'Ascoli Calcio, che è la squadra più rappresentativa delle Marche. Domani è una partita importantissima contro il Crotone, volevo dire soltanto un dato, una cosa. Domani è il 6 di ottobre. Bene, l'Ascoli Calcio non riceve più un rigore a favore dal 6 ottobre del 2012. Ecco, questo è una notizia che vi do e senza essere malizioso prova a pensare cosa accadrebbe qualora... Scommetto che non la sapeva neanche Giovanni Capuano che parla frequente ogni domenica con... No, mi mancava però all'amico marchigiano possiamo rispondere come in tanti hanno risposto ai tifosi della Juventus l'anno scorso. Si ricordi che il Milan di Capello rimase senza rigori per ben più di un anno e vinse tutto quello che c'era da vincere. Quindi io credo, Carlo, uno scudetto vinto con un rigore a favore, forse anche sbagliato da Simone. Beh, ma in fondo la Juventus l'anno scorso ne ha presi due, se non sbaglio, di tra l'altro irrilevanti, di cui uno sbagliato. Quindi si consoli l'amico marchigiano, non è detto che il fatto che da un anno all'Ascoli non vengano concessi calci di rigore sia alla fine un male, chi lo sa. Se l'Ascoli vale, lo vediamo fra qualche mese, magari ce lo ritroviamo in Serie A. Grazie Giovanni. Domani grazie qui a te, alle Carlo, 5. Dalle 17 alle 18. Ragazzi, Lorenzo da Mestre vuol convocare Sara Errani, mi sembra che se lo meriti, va bene? Lo faremo molto presto. Intanto, voce amica della settimana, il venerdì parliamo con, proviamo sempre, ogni volta, a parlare con chi vi racconterà le partite della domenica. È un piacere per me salutare Simone Malaguti da Mediaset Premium. Ciao Simone. Ciao Carlo, come è stai? Un piacere che ti sia ricordato di me. Io mi ricordo sempre di te, caro Simone Malaguti. Senti una cosa, partirei dall'Europa League, bilancio settimanale dell'Europeo, 4 vittorie, un pareggio, una sconfitta, siamo andati molto bene, io direi. L'Inter B, l'Inter Primavera che vince a Baku, l'Udinese che fa un'impresa, la Lazio che fa il suo in uno stadio in cui, sottolineava prima un ascoltatore, c'erano più giocatori che spettatori, ma anche questo fa parte del retaggio con cui si affronta l'Europa League, che per me è una signora competizione. Il Napoli che mi pare non gliene freghi niente. Ecco, diciamo che è andato tutto bene tranne il Napoli, che ha messo in mostra il solito vizio un po' italiano di rubare questa competizione, e forse secondo me anche un pizzico di presunzione di sentirsi già squadra grande e da scudetto, per cui coppe come questa diventano secondarie. Se l'affronti in questo modo, un po' con la squadra B e un po' con la mentalità di chi va a giocare una coppa secondaria, anche se non giochi con il Real Madrid ma col PSV Eindhoven, che comunque non è una squadra sprovveduta, le prendi. Passi l'Inter, che se gioca con la squadra B del Nessi potrà tranquillamente vincere, ma contro il PSV Eindhoven è un'altra cosa, e fai le figuracce. Sì. Questo non è stato bello, al di là del fatto che è stata una bella settimana, insomma. Sì, favorito del derby, domanda, mi rendo conto, banalissima, però Milan e Inter escono comunque da una buona settimana. Mi senti, Carlo? Sì che ti sento. Sì, escono entrambe da una buona settimana, anche se non saprei dire, non sono convinto che entrambe siano fuori dalle difficoltà. Io personalmente vedo un pareggio in questo derby, un po' perché potrebbe andare bene a entrambe, poi dipende anche da come si svilupperà la partita. Credo che un pareggio possa essere il risultato più ipotizzabile, e l'Inter continua a portare avanti questo discorso della difesa 3 che sembra funzionare, ma non è ancora detto che abbia sistemato le specche nei movimenti difensivi. Un paio di settimane fa funzionavano veramente male, sembrava quasi che la squadra non avesse lavorato bene in questi mesi sull'aspetto difensivo. Il Milan è ancora una squadra in difficoltà, secondo me, che può comunque risolvere le partite con qualche colpo, se non di El Shaarawy, magari col risveglio di Robinho, con un risveglio sì, di Boateng. Bisogna aspettare che si sveglino, eh. El Shaarawy mi sembra l'unico sveglio. Esatto. Simone, tu domenica racconterai una partita delicata anche dal punto di vista ambientale, o mi sbaglio? Sì, Pescara-Lazio, partita che sto preparando, tra l'altro, proprio in questa... giornata. Pescara blindata, infatti, gara che non si gioca dal 93, fra l'altro, è una bella partita, secondo me, è una bella partita, perché la Lazio comunque, al di là dell'essere una ottima squadra, torna fiduciosa dopo la vittoria in Europa League, ma finalmente direi che l'elemento di cui aveva più bisogno di pescare un po' di fiducia e di autostima adesso c'è. Mm. E questo secondo me fa il 30-40% del rendimento della squadra. Mi piace molto vedere Maicon, un giocatore che ha seguito nel mi è piaciuto, ha iniziato molto bene anche quest'anno. Non ho capito chi. Weiss, che è squalificato. Weiss di Pescara potrebbe essere un po' la sua assenza. Una partita che non vorrei fare sempre quello che dà un colpo al cerchio e uno alla botte, ma secondo me anche qui potrebbe uscire un pareggio. Ma io voto Lazio in questo caso. Grazie Simone. Ciao, a presto, Carlo. Buon lavoro. Grazie. Per Pescara Lazio, che racconterai per Mediaset Premium. Dunque, adesso il malcapitato Luca dalla provincia di Milano è l'ascoltatore a cui tocca il quizzone. I numeri della Champions. Eccala. Buongiorno. Ciao Luca. Ciao. Sei pronto? Proviamo. Allora, ho chiamato per un'altra cosa, ma proviamo, dai. No, ma poi te la faccio dire, Ok. Poi stai tranquillo. Il giocatore più anziano, di che squadra tieni? La prima in classifica, quella di Torino. La prima in classifica, quella di Torino. Allora, il giocatore più anziano a segnare una rete in finale di Champions League. Ryan Giggs. Sbagliato. Paolo Maldini. Segnò dopo 53 secondi il primo gol del Milan. Ah, già, è vero. Contro il Liverpool, 36 anni, 334 giorni. Caro il mio Luca, stai lì. I numeri della Champions. In collaborazione con Unicredit. Mi pare tu volessi dire un'altra cosa, Luca. No, io volevo solo dire che per quanto riguarda l'ingresso allo stadio, ecco, adesso di andare allo stadio, io sono andato a vedere, per esempio io tengo Juventus, mio figlio il Milan, l'ho portato a vedere il Milan. Non posso portare dentro una bottiglietta d'acqua per mio figlio che ha 8 anni, devo passare 3 cancelli, devo fare la testa del tifoso, mio figlio ha 8 anni, viene perquisito, devo parcheggiare la macchina a pagamento, vabbè, quello ci può stare, devo fare un chilometro a piedi, devo arrivare un'ora prima. Domenica voglio vedermi il derby, pago 10 euro Mediaset Premium, per dire una, posso dire anche Sky, così, e me la vedo, e mi vedo la partita a casa. Sì, sì. Mio figlio sinceramente ha 8 anni e ha detto: papà, ma perché mi devo guardare nello zaino, perché non posso portare l'acqua? Lo capisco perfettamente, Luca. Io lo capisco perfettamente, perché sono anni che sono imbestialito per queste cose, perché io non io dico, ma lo dico pubblicamente, io non faccio schedare i miei figli per fare la tessera del tifoso. I miei figli, se vogliono andare a uno stadio, devono poterci andare in modo libero, ordinato e civile, comportandosi civilmente, mettendo nello zaino il succo di frutta, la mela, senza che ci sia un poliziotto che guardi dentro lo zaino di mio figlio. Questa è una vergogna assoluta, tutta italiana. Grazie a Luca dalla provincia di Milano, a tutti voi che ci avete seguito, a Franco Piantanide e anche insultato e anche fatto i complimenti, naturalmente. Franco Piantanide in redazione, Pietro Lacorte in regia. Domani e domenica c'è Giovanni Capuano, qui lascerò il microfono. Poi da lunedì a giovedì ci sentiamo. Venerdì tutti convocati.